Oh, che si fa? Si inizia? Cominciamo? Benvenuti a tutti, nuova puntata della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, trasmettendo dalla Galleria San Lorenzo in centro di Montevarchi. Fumino, questa sera abbiamo un ospite speciale, un tifoso, un vero appassionato di Montevarchi, uno di quelli che vive la passione per la squadra in un modo molto forte, anche visibile la domenica quando ci incrociamo nella curva dello stadio Brilliperi, non è vero? È vero Giulian, è proprio così. E l'ospite di stasera, come dicevi tu, è un appassionato, è uno che della passione per il Montevarchi ha fatto, diciamo, uno stile di vita. Per quanto mi riguarda è un fratello, è un amico incredibile che conosco da quando sono nato, anzi lui mi conosce da quando sono nato. Basta preamboli, benvenuto a Francesco Baglioni. Benvenuto a voi, grazie a voi, grazie a voi. Senti Francesco, ti faccio io la prima domanda. Durante le partite in casa in Montevarchi, io da una vita probabilmente, da quando vengo, ti vedo sempre progressivamente, come vanno avanti i minuti verso la fine della partita, avvicinarti sempre di più al campo. Solitamente il secondo tempo sei sempre attaccato alla rete, quasi volessi entrare. Quali sono le origini di questa passione così forte per la squadra e per i colori rossoblu? Allora, deve essere la vecchiaia, perché io ultimamente, negli ultimi anni, cosa non facevo prima, quando il Montevarchi tira dalla parte della curva, io bisogna scendere giù alla rete perché mi sento più vicino alla squadra, e a volte scendo anche quando Montevarchi tira dalla parte di Giglio. Oramai è diventata un'abitudine scendere vicino, in quei momenti la scendo a tutte le maniere. Sì, si nota proprio che c'è questa necessità, sì, di vicinanza fisica proprio verso il campo. Ma da quant'è esattamente la passione è così forte per te? È sempre stata, però che fa questa cosa qui è da quando Montevarchi è ripartito. Da quando, dopo il fallimento? Da quando è la nuova società. E per quale ragione? Per una questione anche di appoggio, diciamo, a quello che è stata la... È proprio la cosa mi viene naturale, che prima rimanevo in curva, tranquillamente, o incazzatamente, o negli altri. Ora invece sono costretto a scendere perché vengo trasportato giù per gli scalini e mi trovo alla rete. È questo bisogno di essere il dodicesimo uomo in campo effettivo che è tipico comunque dei tifosi veri, insomma. Ed è anche una cosa che molti giocatori che sono passati da Montevarchi negli ultimi anni, quindi giocatori che con grande merito comunque sono calciatori magari di seconda, di prima categoria, di promozione, e quindi non erano abituati a giocare di fronte ad un pubblico, effettivamente quelli che conosco personalmente e che trovavo in giro ai tempi mi dicevano che la curva sud, il grande appoggio che i montevarchini, al di là della curva, i montevarchini in genere danno alla squadra, era per loro linfa vitale, e in effetti anche il modo di fare di Francesco ritorna in questo. Quindi Francesco, complimenti, perché anche te hai fatto parte del dodicesimo uomo in campo in maniera proprio come primo attore. Una domanda però che mi viene di farti, che mi incuriosisce molto, vado un po' indietro nel tempo, vado a, diciamo, quando tu sei un ragazzetto, e quindi negli anni 80 sei un adolescente e probabilmente inizia in quegli anni la tua passione per il calcio, la tua passione per il Montevarchi piuttosto che magari per una squadra di Serie A come fanno tanti bambini di quell'età. Come fu che la tua passione è andata al Brilliperi e non altrove? La passione è stata per il Montevarchi subito, diciamo, perché io la prima partita di Montevarchi l'ho vista alla fine degli anni 70, quando a Montevarchi c'era Valeri, il nostro amato lupo, tanto per intendersi. Mi portò mia zia, e penso sia stata la prima volta allo stadio in vita sua, mi ci portò una domenica per scherzo. E io da allora poi il Brilliperi mi è entrato nel cuore. Già a 10 anni, a 11 anni io... lacrime e sorrisi per i Montevarchi. Io stavo tutti i giorni ai Brilliperi quando la squadra si allenava. Stavo con Lupo Valeri, stavo con il vecchio Custode, con Molino, stavo con giocatori tipo Belloli, Bressani, Bolvar. Rimanevo dopo l'allenamento, quando facendo calci di rigore, scommettendo la bevuta. Stavo con loro quando dentro gli spogliatoi, perché si era persa una partita magari due giorni prima, i Valeri prendeva assediate la porta, magari assediate anche il giocatore, che come ho saputo dopo. Però io, insomma, l'ho vissuto tutte quelle cose lì. E poi quando vivi quelle cose, e se in un ambiente come Montevarchi, che io non reputo un ambiente qualunque, reputo uno di quegli ambienti particolari in cui la squadra non solo ti rappresenta nel campo, ma ti rappresenta nella vita. E allora è una cosa che poi ti prende ancora di più. E allacciandomi ad un nome che hai fatto svariate volte in questa risposta, arriviamo a Gastone Brilliperi. Forse è un caso, forse no, ma ci sono giunte voci che tu abbia un legame particolare con Gastone Brilliperi, o se non proprio tu in prima persona, comunque la tua famiglia. Ci vuoi raccontare perché? Vero, sì. Il fondo dove teneva la macchina Gastone Brilliperi al Giglio, nella zona delle suore, fu poi la camera di mio babbo e di mio zio. In quella stanza lì ci teneva la macchina Gastone. Quindi dove Gastone ai tempi parcheggiava la macchina, sì, diventò la camera. Poi qualche anno dopo ci ha vissuto tuo padre. Sì, quindi. Chissà, forse è anche da lì che ti è stata trasmessa questa passione, questo amore verso questo posto, perché tu prima hai detto molto spesso quando ero al Brilliperi, cioè era essere al Brilliperi, essere allo stadio. Essere al Brilliperi, tra l'altro con la passione me l'ha inculcata ancora di più mio nonno, che a un certo punto, perché troppo malato d'asma, non ci faceva più manco a venire allo stadio perché stava male, però lui era amichissimo di Vasco Farolfi. E quindi non potendo venire lui, ancora di più mi incitava a venire io. E quindi rappresentava anche mio nonno ai Brilliperi, quindi mi sono sentito di fare una doppia mansione. E lo facevo ancora con più entusiasmo. Ero un ragazzino, ripeto, perché io a 10-11 anni già ero ai Brilliperi. Sono nato nel 68, quindi parlo degli anni 78, 77, 78, e poi ero già ai Brilliperi. Ora, una cosa che dicevi te precedentemente era relativa al fatto che la squadra del Montevarchi non solo deve rappresentare una squadra calcistica, ma deve anche rappresentare la città. Come te sai, noi ci proponiamo di indagare e di ricercare la cosiddetta Montevarchinità anche attraverso l'Aquila Rossoblu, i colori rossoblu della nostra squadra in questa trasmissione. Quindi ti faccio una domanda piuttosto aperta: se te dovessi definire con un esempio o come vuoi la Montevarchinità, anche in luce rispetto a quello che ti hai detto precedentemente, come la descriveresti? La Montevarchinità sta nel sangue. Secondo me ci si nasce una mentalità. In questo paese ci si nasce. Poi c'è chi più, chi meno. Ma è un qualcosa che non si insegna, non si può imparare a nessuno. È una cosa più forte di te. È come il sangue ti scorre nelle vene, ci si scorre la Montevarchinità. È un'appartenenza e nessuno ti può togliere. Perché ti toglierebbe un pezzetto della tua vita. E quindi, nel senso, il Montevarchi in questo quindi rappresenta esattamente... Anche rappresenta l'apice di questa cosa. Lo sfogo più assoluto. Lo sfogo più assoluto di una persona che sente Montevarchi nel cuore. Quello che dice Francesco è molto interessante da un punto di vista. Ti ricordi quando abbiamo parlato con Amerigo Sarri e lui ci raccontava che negli anni 40, 50, 60, fino a un certo punto negli anni 60, il ciclismo era più seguito del calcio, e addirittura se le persone avessero dovuto scegliere fra andare a vedere la partita di calcio o la corsa, l'arrivo delle corse alle biciclette, sarebbe andato in concomitanza agli orari a vedere la corsa di biciclette. Tanto ci ha raccontato di scazzottate, derby all'arrivo fra Montevarchini e San Giovannesi, ad esempio. E insomma, quindi mi viene da dire che la Montevarchinità, come diceva Francesco poco anzi, sta nello sport, sta nella competizione, sta nel sentirsi portatori sani di colori e di bandiere. Giusto. Portatori sani. Di un qualcosa che è più forte di noi e che anche se se ne volesse fare un capellino a me non ci si fa. Il cuore va da quella parte, il sangue tira da quella parte. Io a volte ho avuto il piacere di conoscere i direttori sportivi ultimamente, negli ultimi anni, e che non fai direttore sportivo, non so, fai semplice tifoso. A malapena un mezzo ultra, perché i veri ultra sono quelli che vedono 30 partite l'anno, che fanno tutte le trasferte, cosa io non lo vedo tutte quelle in casa e fa qualche trasferta. Quindi, come sanno, per la curva io mi inchino davanti a tanto, perché io non ce la posso fare per tanti motivi. Conoscendo qualche direttore sportivo e diversi giocatori tramite delle amicizie, qualche giocatore prima di venire a Montevarchi tramite altre persone mi faceva domandare. Francesco dice: ma a Montevarchi come viene vissuto il calcio? E io ho risposto sempre a tutti con la stessa risposta: Il calcio a Montevarchi viene vissuto 8 giorni su 7, perché il calcio a Montevarchi non finisce la domenica quando è finita la partita, anzi il bello è da iniziare, perché poi c'è da ragionare dalla domenica sera a che non si risolva. Quindi qui chi deve venire sappia che c'è tante pressioni e tante soddisfazioni. Per aggiungere le soddisfazioni bisogna sopportare tante pressioni. Se uno non ce la fa, fa bene a ragionare a darci dove vuole, perché qui il pubblico è esigente, però ti trasmette anche tanto e si merita di essere esigente. La piazza è una piazza che merita, e quindi giustamente un giocatore deve venire qui, deve avere le cosiddette. Che poi del resto cosa meglio dello sport può essere metafora della vita quotidiana e della vita anche di una città o di una cittadina come Montevarchi? Io la vedo un'ossa piuttosto fiabesca. E a questo proposito, tra l'altro, Fumino, mi riallaccio a ringraziare e salutare il nostro regista, che è il re del fiabesco, perlomeno in una fase della sua carriera lo è stato, che è Steven Spielberg. Grande Steven. Perché mi era passato di mente precedentemente. Comunque, tornando a noi, Francesco, ti volevo chiedere, da tifoso e da tanti anni quindi appassionato dei colori rosso-blu, un giocatore che secondo te l'ha incarnata la montevarchinità in campo? Secondo me ce ne sono tanti. Io ho visto gente come Bressani, Polvar, fino ad arrivare all'Arcadio, fino ad arrivare a giocatori degli anni 2000, della ripartenza, Cuccoli, tanto per intendersi. È gente che qualunque la teoria tu fossi, vedi, ha dato l'anima per Montevarchi. Ma ce ne sono stati a decine, io penso da averne visti tantissimi, veramente. Io vedo, sono veramente soddisfatto. Vorrei sottolineare, secondo me, perché Francesco l'ha citato, due giocatori tra i rappresentativi della montevarchinità. Io effettivamente vorrei citare due gol che secondo me rappresentano al massimo la montevarchinità, che mi sono venuti in mente. Uno è proprio quello di Cuccoli, che è il suo ultimo gol, se non erro, il 3-0 nella promozione, e la sua esultanza, e secondo me è montevarchinissima, diciamo. Il 40° gol con sorso di birra. Esatto. E un altro invece è un gol che io ho visto solamente in televisione perché non c'ero, però è il gol di Arcadio nella partita con Sandonà, dove lui rincorre una palla che praticamente nessuno avrebbe potuto prendere, partendo da lontanissimo, forse da dietro il mezzo campo, e in scatto arriva fino a segnare la rete dell'apoteosi, perché è la rete del 4-2. Quindi effettivamente sì, cioè sia Arcadio che Cuccoli probabilmente sono due rappresentazioni effettive della montevarchinità. In te cosa succede effettivamente quando vedi un gol del genere? Comunque, quando vedi un gol, ad esempio, siamo reduci dalla vittoria in trasferta a San Giovanni al Virgilio Fedini nel derby, no? Montevarchi ha vinto 2-0. Noi, ad esempio, non so se te eri già entrato allo stadio, ma noi il primo gol non l'abbiamo visto. Te cosa hai provato quando si è fatto il gol? Io, perché l'aspettare voi. Succede che ho fibrillazione e non ci stia attento. Ecco che succede, perché l'emozione è talmente tanta. A parte il gol a loro ti dà ancora qualcosa in più dopo tutto l'avvicinarsi di derby, tutto quelli discorsieri e tutte, vabbè. Però il gol di Montevarchi, io quando vedo gonfiare la lettera di Montevarchi, ragazzi, è un qualcosa. Io a volte mi so descrivere meno per me stesso, a volte i familiari mi dicono: ma che li prende? Che li prende? Non lo so, è un qualcosa di naturale, perché non fermi, a parte l'esultanza, ma è quello che senti dentro, è un qualcosa di bellissimo. Iniziamo anche una piccola ricerca della montevarchinità, andando un attimino fuori dal tema calcio per entrare nel tema Montevarchi. Allora, Francesco, ci hai raccontato di quando eri bambino e sei andato per la prima volta allo stadio e perché una zia ti ha portato. Ma poi, questa tua passione, quando tu eri ancora ragazzino, ad esempio, la trasmettevi ai tuoi compagni, glielo raccontavi, venivano anche loro. Che tipo di persone erano i ragazzetti degli anni 80, sostanzialmente? I ragazzetti degli anni 80, io penso, nella mia classe ce ne portavo mezza allo stadio. Più quelli non erano nella mia classe. E mi ricordo si andava ai pestello e si costruiva le trombette da noi con tutti i rami elettrici, i fili, si lavorava a sentire. Mi ricordo io di Davide, di Fioravanti, ora non viene più nemmeno allo stadio, non so nemmeno dove abita sinceramente, però si faceva le medie insieme, come io ho fatto qualche anno di scuola con Piscolo. Quindi vi potete immaginare, io e Piscolo a Montevarchi, insomma, si dice un pezzo della storia della nostra curva. Tra l'altro, per puntualizzare, per chi non è di Montevarchi e ci ascolta, Pispolo è uno storico ultra della Curva Sud che purtroppo è scomparso qualche anno fa. E comunque, riallacciandoci anche sul fatto che appunto te parlavi di aver iniziato a frequentare il Brilli Peri come stadio fin da piccolissimo, in relazione alle trasformazioni che te hai visto anche a livello proprio di costruzione dello stadio, ad oggi cosa ti auguri per il futuro di Montevarchi in relazione proprio alla struttura, alla casa della montevarchinità, come la possiamo definire? Perché comunque sappiamo che se il Montevarchi mai prossimamente decidesse o riuscisse a salire di categoria, sarebbe necessaria un'imponente, presumibilmente, ristrutturazione che non dovrebbe o che non potrebbe essere così facile oggi come oggi, considerando i costi o comunque le possibilità. Un po' un cappellino chiesto. Io oggi mi domandavo da me solo per vedere la trasmissione qui da voi. Se il maledetto gennaio di 96 non succedeva quello che succedeva a Vasco, se una piazza come Montevarchi nel 2017 avremmo potuto dire abbiamo visto anche la Serie B. Perché io vedo Serie A, Serie B, e avendo gemellaggio con Perugia e Empoli, viene raccontato in tanti stadi, era anche vista a Montevarchi, lo trovo una Serie B. E a volte qualche caso del mio Serie A. Io sono convinto che Vasco avrebbe portato i Montevarchi in Serie B. Quando comprò Falcao, che dette soldi per Dino Viola, come portò Falcao alla Roma, avrebbe portato i Montevarchi in Serie B. E per l'appunto morì proprio l'anno in cui l'aveva promesso, che prima di morire avrebbe portato in Serie B. Eravamo alla fine dell'andata della Serie C1 e eravamo in piena lotta a promozione per andare in Serie B quando è successo. Ora, noi siamo in mano a delle persone, alcune ci sono molto ma molto amiche, ma anche di qualcuno. Io conosco tutti i dirigenti, ma con qualcuno veramente un rapporto speciale, senza fare nome perché non togliere il merito a nessuno, al passato da sé. Io penso che sia una società in grado di fare anche la categoria superiore alla grande. Parere personale, non perché me l'hanno detto. È un parere personale perché prima di essere dirigenti sono uomini. E sono uomini ambiziosi. Io mi auguro per i Montevarchi che si possa rifare, perché penso che la piazza se non merghi e penso che la società abbia un grandissimo riscontro da parte dei tifosi, anche a livello numerico allo stadio. Per quanto riguarda quello che va a fare allo stadio, parlando proprio con questi dirigenti, chi di dovere è bene si deve fare. Perché se il tifoso non va in Serie C perché arriva secondo o terzo, si prende, si rimane in Serie D. Ma se si dovesse tirare un capellino, la mano indietro, perché non ci sarà la struttura adatta, cosa ci farebbe girare molto? Insomma, chi di dovere bene lo sappia. Auguriamoci che chi di dovere e i montevarchini facoltosi in generale si tolgano, come dire, le portafogli di tasca e magari se li mettano sul cuore. Tra l'altro, con le possibilità che ci sono oggi anche nel cercare di recuperare la struttura secondo quei limiti minimi necessari per poter sostenere delle categorie superiori, effettivamente esistono tante aziende edili e tante situazioni a Montevarchi che magari sono costrette a tenere i dipendenti in cassa integrazione, che potrebbero anche usufruire di un'occasione del genere per creare nuove occasioni di lavoro. Alla fine comunque ci sono maestranze, ci sono competenze tecniche e il lavoro insomma non è così complicato come magari avrebbe potuto essere molti anni fa, però siamo nelle mani di chi? Del Signore. E a parte questo, a parte il discorso prettamente tecnico delle eventualmente nuove strutture che sono, mi sembra, abbastanza urgenti dal punto di vista proprio pratico, oggettivo, perché comunque in questo momento il Brilli Peri vede una parte dello stadio inagibile, quindi c'è per forza da rifare qualcosa, magari c'è chi dice, però al di là di questo c'è anche da lavorare. Questo ti vorrei chiedere cosa ne pensi tu, se anche tu avverti questa emergenza, per permettere ai giovani di crescere in un ambiente calcistico di elite, perché alla fine abbiamo molte squadre giovanili, se non tutte, nei campionati elite, ma i posti dove si allenano sono di elite, sono a quel livello oppure no? No, No, noi abbiamo tra l'altro un settore giovanile, io penso, ma non solo nel nostro comprensorio, ma forse nemmeno in Toscana, abbiamo un settore giovanile più forte a livello, diciamo, regionale, ma penso anche di più che regionale. Abbiamo una prima squadra con una grande società alle spalle, ripeto, e quindi ci vogliono le strutture. Non si può fare allenamenti a Mercatale, a Loro, perché in Brindiferi quando ci si allena c'è il podista, c'è quello che ha la bocce, c'è quello che ha l'arco e le frecce. In Montevarchi ha bisogno di una struttura dove si deve allenare seriamente, perché noi giochiamo a calcio non per partecipare, Montevarchi gioca a calcio per vincere. Poi non si vince, ma noi non si parte mai per partecipare, né la società, né tantomeno i tifosi. Si sa perdere. Abbiamo perso tante volte, siamo ripartiti dai terreni agricoli a giocare a pallone. Abbiamo visto le partite senza segnaline, abbiamo visto di tutto di più. Ma ora soprattutto, ora, da ora un po' in un'altra volta, io penso che noi per partecipare mai. Poi si può arrivare ai ventesimi, ma noi non si parte mai per partecipare. E chi di dovere deve permettere a questa società, a queste squadre, di allenarsi in centri di elite. No, in centri trovati così per caso, perché Montevarchi deve allenarsi a Montevarchi, perché il tifoso durante la settimana va a caricare la squadra a Montevarchi, non deve andare a Mercatale, non deve andare a Loro, deve andare ai Brilliperi, l'asta di Montevarchi, ai Brilliperi. Io la penso così e sempre la penserò così, perché le partite si vincono la domenica, ma si vincono anche durante la settimana stando vicino alla squadra. Quindi, secondo la tua analisi, mi sembra di capire che secondo te i montevarchini seguirebbero costantemente la squadra durante tutta la settimana e di conseguenza magari una struttura anche più all'avanguardia, quindi con un negozio, con un bar, con un ristorante, una pizzeria, magari con uno shop per il materiale del Montevarchi, che in effetti non è semplice da ritrovare, e che ne so, poi forse magari anche un museo per quei due o tre turisti che vengono a fare turismo calcistico e magari passando dagli outlet che sono in Val d'Arno gli ci rientra anche di fare un salto al Museo del Montevarchi. Te pensi che una cosa così, io un po' vaneggiato, un po' fantasticato, ma te pensi, tra l'altro il regista di stasera è un fantasy, quindi io ho fantasticato pure io, te pensi che questo potrebbe davvero funzionare? Alla grandissima, perché Montevarchi, come sai bene, risponde sempre. Qualsiasi iniziativa, qualsiasi partita, che sia un pochino più, Montevarchi subito raddoppia o triplica gli spettatori. Funzionerebbe alla grande. E ripeto, questi dirigenti ci sono attuali. Finalmente Montevarchi a Montevarchini, dopo che lo smette di venire anche allo stadio, perché era diventato un patimento, vedere Montevarchi in mano a certi soggetti, e sapere la fine si sarebbe fatto, io ho smesso di andare allo stadio. Il famoso Montevarchi che in altre puntate abbiamo definito di nani e ballerine. Sì, preciso, proprio quello. Questa società va stimolata, perché sono gente ambiziosa, ripeto, va stimolata. Quindi Montevarchi come città li deve aiutare a crescere in tutto. Non vanno fermati questa gente, perché questa gente ci deveranno ancora tante soddisfazioni. Vi do la parola io, che non sono dirigente, siamo fra amici, fra fratelli della curva, ma conoscendo i soggetti, io so che se questa gente non viene ostacolata, ancora c'ha dalle facce delle soddisfazioni belle. Quindi io spero per Montevarchi che chi di dovere, come ho detto prima, si dia la svegliata e invece di scaldare la seggiolina ogni tanto guardi anche il problema di Montevarchi, che per Montevarchi non è un problema secondario, è un problema primario. Perché a Montevarchi tocca di Montevarchi è un cazzotto nei denti ogni minuto, quindi fa male. Quando se ne è preso uno, poi il secondo non si può prendere. E riallacciandomi, Francesco, ad un discorso che tu hai fatto prima, vale a dire le amicizie con altre tifoserie anche di fuori regione, perché tu hai citato Perugia, hai citato Empoli, e io aggiungo Lanciano, aggiungo altre amicizie che ci sono in giro per l'Italia. Io mi ricordo che quando il Montevarchi era in C1, il fatto di essere di Montevarchi, che ne so, quando andavamo al mare, era riconosciuto un po' da tantissime persone, perché appunto il Montevarchi, militando nella serie C di allora, che oggi sarebbe la Lega Pro, era nell'album delle figurine, girava l'Italia, almeno il nord Italia, per andare a giocare a pallone, e quindi dire sono di Montevarchi ti dava già un biglietto da visita, e non so se questo anche tu l'hai provato, ma da quando il Monte Varchi invece è sparito da quelle categorie, tocca dire un paese fra Firenze e Arezzo, una città fra Firenze e Arezzo, la città più grande fra Firenze e Arezzo, giusto per... Però manca il Monte Varchi a livello di popolarità, proprio perché manca, è mancata fino ad ora, ed ora già un po' meglio, la popolarità del calcio, l'essere portato in giro il nome di Monte Varchi dalla squadra di calcio. Tu hai riscontrato questo stesso discorso, oppure ce l'ho in testa io, ma magari... Io l'ho riscontrato, anche se quest'anno già vedo il cambiamento, anche perché essere in Serie D praticamente sarebbe essere la vecchia cintura di una volta, praticamente la riforma di campionato, questa è la quarta serie, c'è poco da dire, questa è la Serie C2, tanto per intendersi. Però è vero, e quegli anni di infatti comunque disgraziati ci hanno penalizzato. Quest'anno vedo un cambiamento di tendenza. Fa piacere vedere Monte Varchi, viene reglamentato a tutti i livelli. Poi, anche personalmente, accendo la televisione, 23 video, pagina 250 parti, e trovare Monte Varchi, prende già tanta roba. Tra l'altro, come hai detto te giustamente, la Serie D è quella che una volta era la C2, quella che una volta era la C1, che ora è essenzialmente la Serie C, è bella piena a livello di squadre toscane con le quali il Monte Varchi ha giocato per molti anni, negli anni appunto della nostra C1 praticamente. Te ovviamente in tutti questi anni a seguito del rossoblù avrai vissuto tantissimi derby. Qual è il derby toscano che te senti di più? Sarà perché essendo andato allo stadio presto, o forse più ricordi, però tutti i derby d'Arezzo, sicuramente il derby d'Arezzo è quello a livello numerico, a livello sentito dalla maggior parte della gente, è quello più ambito a Monte Varchi. Io personalmente sono tra quelli che quello con la San Giovannese non ho reputo un centimetro meno. Io sento quello con la San Giovannese in maniera fortissima, tanto è vero, al ritorno dallo stadio a San Giovanni ha guidato mia moglie, perché io oltre alla vita ero talmente in fibrillazione non ce la faccio nemmeno a guidare. Vincere contro di loro mi dà un gusto particolare, perché ha un gusto di rivalità sportiva, fino a lì ci siamo, mi dà un gusto triplo, perché oltre al campo che tu vinci con delle persone che tanto quello che Dio ne fa ammenda, dove sto di casa i più lo sanno, sì, che quando hanno qualche problema basta mi sono nel campanello. Sono andato a strombazzare per le strade alla morte di Vasco Farolfi, hanno messo striscioni con scritto schiavi di un morto. Io quindi quella gente lì, a me mi domandavano quest'anno se avrei rivoluto i derby quando andare tutto a Monte Varchi, o la maggior parte mi dicevano che tu sei matto, ebbene sparischi. Sì, loro devono sparire, ma dopo aver perso i Monte Varchi tutti e due i derby in campionato, troppo si è pareggiato. Molti montevarchini sbagliando si sono demoralizzati di pareggi di prima uscita di Coppa Italia, che Montevarchi non si meritava, perché il 20 agosto non si fanno mai conti con qualunque squadra tu giochi. Tra l'altro si è fatto un mese in più di preparazione rispetto a loro, sarà una squadra totalmente nuova, siamo fra le più giovani di girone, quindi il 20 agosto non andava fatto sentenze. Tra l'altro sul campo la partita è pareggiata, siamo usciti dalla Coppa ma non l'abbiamo persa. Duferre ancora l'hanno ricorso loro, aspettando che il 4 febbraio ci siano due meloni belli pronti da dargli. E spero che dicembre andare a San Giovanni a fare il mercatino, perché sicuramente se avranno più punti di quelli che pensano di avere, ci sarà un bel viavai di battere dei giocatori. Io spero che qualche loro piglia anche in Monte Varchi, se fosse buono. E se loro magari di quattrini sembra ne avrebbero un po' bisogno, per cui appunto, ci sta. Appunto. Un po' di beneficenza, un po' sotto le feste, fa sempre bene. Esatto. Chi non ha bisogno di soldi in questo periodo storico, tutti. Bene, io personalmente, anch'io so se qualcuno vuole venire anche da me a comprare qualcosa. In quanto Montevarchini, la Montevarchinità anche per il cuore d'oro. Quindi, siccome di là dalla Gruccia spesso ci ricordano che in certi anni di crisi del Monte Varchi, la buonanima Arduino Casprini avrebbe pagato i campionati, grande presidente, e quindi anche noi in questo caso l'iscrizione al campionato di Monte Varchi, anche noi in questo caso si potrebbe dargli due spiccioli, insomma, se avessero bisogno. 5 chilometri e la rivalità ci dividono un modo di condurre la vita sportiva e sociale, perché quello che hanno fatto loro va al di fuori dello stadio, non si specula sulle disgrazie, è bruttissimo. E io quello l'ho legato ai dito da tantissimi anni, dal 96. Quindi prima ci tenevo a vincere il San Giovanni, se no ci tengo 25 volte di più. E riallacciandomi a quello che prima diceva Julian, ti faccio la domanda di rito che facciamo più o meno a tutti gli ospiti, che siano tifosi o calciatori o ex calciatori. E la domanda è questa: tu che hai visto tante partite, tanti anni al seguito del Monte Varchi, circa 40 ormai, quindi ne avrai viste veramente di cotte e di crude, qual è la gioia più bella che tu hai vissuto dal vivo durante una partita di calcio del Monte Varchi, e qual è la delusione più cocente che hai vissuto nelle stesse condizioni? Quello che ho vissuto più intensamente e belle sarebbero tre per tre motivi diversi. Una sarebbe la vittoria del campionato nei famosi spareggi 78-79, perché stando di casa in via Roma, mi sai bene, stato 25 anni di Roma e 15 di Acennano, quindi di centro storico me ne intendo abbastanza bene. C'era la vecchia Montevarchinità, come la chiamo io. Chi poteva andava agli spareggi o Pullman, chi rimaneva era il Bar Firenze, il Bar Sporte, il Bar dell'Anselme, e c'era decine di persone, capannelli di persone con una radiolina che sembrava essere allo stadio, perché c'era gente che impazziva. Quella mi è rimasta nel cuore perché l'ho vissuta da ragazzetto. Tra l'altro poi andò a C1, quindi giustamente più soddisfazione di quello, più tutti gli spareggi. L'altra è nella famosa San Donà Baraccalugo, partita di San Donà e la partita poi a Baraccalugo con Bradia. La prima che ho detto era con Balleri e poi quella con Romano Fogli nell'88 a Empoli, cui ero presente. Tra l'altro mio fratello mi infama ancora perché ce lo portai, però quando Garfagnini sbagliò il rigore è stata una cosa più grande di me. Io ancora non avevo 20 anni, ne avevo 19. È stata una soddisfazione, anche perché ormai sarà praticamente più persa che vinta a rigori. E poi quando si ribaltò il tutto e non ci si sperava più nessuno, ci fu un'esplosione di gioia immensa, immensa. Io vedo Montevarchi, proprio Montevarchini piangere. Ho visto i Montevarchini piangere. E quella più cocente a Pesaro, dove ero presente, e qui 3-3 con Busilacchi, Montigelli, si perse la C1 per un punto a scarto della Radese. È quella coce, coce veramente. Fra quello che tu hai citato, il derby di Empoli ha dato delle grosse soddisfazioni, non solo dal punto di vista sportivo per la promozione del Monte Varchi, ma anche da un punto di vista umano, perché è da lì che cominciò il gemellaggio con la tifoseria empolese e quindi con la città di Empoli. E quando fu diciamo stipulato questo gemellaggio, niente stipulazioni, c'è una grande amicizia. Noi eravamo circa 2.000-2.500, una stessa era 6.000, mi ricordo bene, e oltre i massessi venivano dalla sua parte i lucchesi, e gli empolesi, senza che nessuno sapesse niente, venivano tutti dalla nostra parte. Ti farono con noi come se fossero sempre venuti a vedere Montevarchi, fossero tifosi di Montevarchi, e la cosa fu talmente bella che non poteva che sfociare in un gemellaggio tra questi due tifosi di Empoli. Tra l'altro negli anni mi pare si sia addirittura rinforzato, se possibile. È ancora in piedi e ora è portato avanti anche da tanti giovani che in quell'88 nemmeno erano nati, e quindi direi che mai gemellaggio è stato più lungimirante per noi del Monte Varchi, questo sì, con gli amici empolesi. Benissimo, stiamo arrivando alla conclusione di questa puntata, però prima di concludere, visto che ti racconto una storia, il volo dell'Aquila rivela notoriamente i segreti. Paranoia. Siamo in grado, grazie a Francesco, di rivelarvi finalmente quale arbitro e in che occasione finì nel Berignolo, perché comunque è una cosa di cui si è già parlato abbondantemente nelle nostre puntate precedenti, e quindi Francesco si è informato, o lo sapeva o non lo so, comunque stasera è qui per dissipare ogni dubbio. anno 71-72, arbitro Foschi di Forlì. E la partita era? Montevarchi-Foligno. Tra l'altro poi, dicevo, se non sbaglio, il campionato nello spareggio a Firenze con la Pistoiese, un gol di Scarpa. Diciamo un anno a porte chiuse praticamente il campo neutro, perché si squalificarono i Brilli per un anno. Mi sono scordato di due giocatori prima importanti, secondo me, per i Montevarchi, che non posso fare a meno di menzionare. Uno è Brilli. Vinicio Brilli. Ho visto fare qualche cento partite a Vinicio, che è stato già il nostro ospite. Sì. Per me è stato una incarnata da Montevarchinità vera in campo e fuori. E Roberto Napolitano, con cui io ero amico, tra l'altro lui era molto più grande di me, ma avevo un'amicizia speciale con questo giocatore di Montevarchi, e dava anima e cuore in campo. Io mi ricordo un Montevarchi Catania in C1, con una nebbia e stavano sospendendo quasi la partita, che noi saremmo in fondo, il Catania era primo classifica, ma vincevamo un gol di Napolitano, e me lo ricordo sempre questa partita, inizio anni 80. E Napolitano, aveva indossato la maglia di Montevarchi, sarebbe stato un esempio, secondo il mio modesto parere. Benissimo, quindi andiamo alla conclusione anche con questi ricordi, dopo aver scoperto l'arbitro che è finito nel Berignolo. Io, Francesco, personalmente ti ringrazio tantissimo, anzi spero quasi che tu possa tornare nel futuro, perché è un onore, mi avete fatto un onore che voi forse non ci pensate nemmeno. No, ma in realtà l'onore è nostro, perché comunque ci ha raccontato tante storie, hai messo tanta carne e fuoco, tanti nomi, tanti ricordi, quindi il mio augurio è davvero che potremo forse nel futuro riavere Francesco ai nostri microfoni. Per voi, per me è uno strapiacere. Più o meno come è successo anche con gli altri ospiti, anche stasera abbiamo imparato un sacco di cose nuove su Montevarchi, sulla montevarchinità, e diciamo, Giulio, anche il nostro viaggio alla ricerca della montevarchinità non poteva che continuare meglio di così, con l'intervista a Francesco, per la quale ti ringrazio, e do appuntamento a tutti gli ascoltatori di Radio Big World per la prossima puntata di Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila. Ringrazio Stefano Neri che ci ospita alla Galleria San Lorenzo in pieno centro storico di Montevarchi. Ringrazio il nostro regista di stasera, Steven Spielberg, che fa un fantasy e un drammatico strappalacrime si è concesso per un'ora a fare il regista alla nostra trasmissione. Ringrazio... Ora si porta a cena fuori, Ringrazio te, Julian, come sempre ottimo compagno di viaggio, e quindi ringrazio Francesco e buonanotte. Grazie a voi. E ringraziamo anche il pubblico presente negli studi di Radio Big World, perché come forse saprete, le puntate sono aperte a tutto il pubblico che vuole intervenire, quindi posti in piedi, noi questo lo abbiamo detto fin da subito, però se qualcuno vuol venire è ben accolto e si può anche godere la registrazione della puntata proprio dal vivo, quindi non si perde assolutamente niente. Se poi voi siete comodoni, portate una seggiolina, magari voi state a sedere, se no voi state ritti, insomma. Comunque potete scriverci sulla nostra pagina Facebook o comunque contattarci per strada se volete sapere quando registriamo le puntate e magari volete essere presenti per vedere anche le nostre bellissime facce dal vivo. Ho appena finito di ridere con io. Ho perso il filo, scusate. No, vabbè. No, va benissimo, alla grande. Tra l'altro, siccome mi sono garbato a dirsela tutta nella domanda che gli ho fatto prima, mi è venuta anche abbastanza casuale. Tu vorrei... sei buono. Esatto. Benissimo, allora quando si è fatti 2-0, perché io neanche il 2-0 ho visto. E dove eri, scusa, ma c'ero o non c'eri? C'era un po' di fila ai bar, a proposito di Montevarchinità. Comunque riallacciandoci... scusami, adesso sto... Adesso sono mezzo influenzato. No, grazie, ma nessuno ogni tanto mi viene... Diciamo una cosa che si dice sempre, che alla fine a Montevarchi anche le imprese edili ci sarebbero e hanno le competenze per costruire lo stadio, e oggi non è più come era negli anni 50, costruire uno stadio, lo stadio di Sesto è praticamente prefabbricato, per cui questa cosa è, a tanti montevarchini mi sembra che lo stadio nuovo si immagina un San Siro, in realtà è un lavoro da cazzata anche per aziende di Montevarchi. E quindi fa lavorare gli italiani. Ma, sì, ma è meglio però, perché si fa come assaggiare. Io da incisa a Montevarchi vomitava 20 volte a tornare giù, perché c'ha le urbe. Barcellona può pedire il museo più visitato della città, è il museo di Barcellona. Quindi nel senso, ora non ti dico, qui non ti dico che sarebbe uguale, perché voglio dire, siamo a Montevarchi. Però comunque secondo me, se il tifoso ospite che viene a vedere la partita in tribuna c'è lo spazio, la stanzina dove c'è i trofei, qualche foto vecchia, ne so, dell'Anselmi, ok, Dio buono, è bellino. Una proposta più in questo modo la si lancia, se qualcuno la sente, se può, la sente.